Venerdì 8 aprile in scena alla Teliersi ci sarà lo spettacolo Io non sono nessuno di Emilia Verginelli. Siamo qui per parlarne proprio con l'autrice. Buon pomeriggio Emilia e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele. Emilia, diciamo che questo spettacolo raccoglie degli episodi di una tua esperienza personale come volontaria all'interno di una casa famiglia. Ti volevo chiedere come ti è venuta l'idea di trasformare appunto questa tua esperienza in uno spettacolo e in che modo hai riportato questa esperienza su un palco. Un tuffo nel passato, sì, perché ovviamente poi si è tutto trasformato nel percorso creativo. Beh, io sono stata 16 anni, ho insegnato teatro in questa casa famiglia, poi sono più 5 strutture e ovviamente in questi 16 anni, / 18, perché poi in realtà è continuato anche questi ultimi 2 anni della pandemia, sono entrata in contatto con tantissimi bambini e bambine che sono diventati adolescenti e a un certo punto mi sono ritrovata quelli che erano dei minori che ho incontrato a 4 anni, che ne avevano 14, 15, 16. In realtà io ho fatto un progetto parallelo al progetto della casa famiglia, che è stato quello di portare tutti i minori adolescenti a teatro a Roma, specialmente all'interno di un festival a Roma che si chiama Short Theater, e farli fare un programma radiofonico. Oltretutto loro vedevano gli spettacoli e poi ne parlavano in radio 10 minuti il giorno dopo, 10-15 minuti eccetera. In questo vedere tanti spettacoli e in questo stare spesso molto insieme, che significa anche proprio tanto dormire insieme, fare i pancake la mattina, cioè ovviamente si sforano tutte quelle che sono delle dimensioni, i confini, anche perché il volontariato un pochettino non ha questo limite. Un po' lo spettacolo parla anche del fatto che appunto che poi le relazioni all'interno di questi luoghi si creano nel tempo. Un gruppetto di loro in particolare mi ha chiesto, dopo uno spettacolo, probabilmente sono usciti un po' così emozionati, e mi hanno detto: ma perché non ne facciamo anche uno noi? Anche un po' nel ricordo del fatto che avevano studiato con me 5 anni, perché io ho sempre interrotto, cioè per me il teatro con i bambini e le bambine all'interno della famiglia è sempre stato dai 4 ai 10, cioè diciamo che alla fine delle elementari, inizio medie, c'era un po' il taglio di questo cordone, insomma, come per dire adesso andate a fare le vostre cose, noi ci rivediamo e facciamo qualcos'altro. E quindi a un certo punto c'è stato questo grande interesse e io gli ho detto: sì, possiamo fare una prova, venite. Gli ho dato un appuntamento un giorno e questo giorno in particolare si è presentato solo Muradis, che è questo ragazzo che è in scena con me adesso e che è in realtà un break dancer e aveva molta voglia di portare la break dance in scena. E in questa prima occasione di incontro, essendo lui un break dancer, essendo una relazione così intima, perché ci conosciamo da quando lui ha 8 anni, insomma adesso ne ha 22, e quel giorno io decisi di portare una telecamera e di fargli un'intervista e ci siamo ritrovati a parlare come mai avevamo parlato prima, perché in fondo questa telecamera ha creato questa, ha lasciato l'intimità della nostra relazione, ma ha dato a lui probabilmente anche una possibilità di espressione molto diversa. Poi sicuramente c'è stata anche subito la break dance, però la cosa che mi ha colpito è stato proprio questo incontro. E io della break dance ne so poco, quindi per quanto è stato all'inizio un grande input anche espressivo di linguaggio e di incontro, poi nell'andare avanti mi sono fatta delle domande su la nostra relazione, la mia relazione all'interno di questa casa famiglia e la mia relazione con gli altri ragazzi e ragazze, tutta una serie di questioni che sono all'interno di quel luogo e delle quali mi ero ovviamente questionata negli anni e che a un certo punto ho iniziato a mettere nero su bianco. Un po' questo, ovviamente io ho fatto con loro più di 16 spettacoli, io poi ho scritto sempre di drammaturgia scenica, quindi cioè, è il mio primo, diciamo, fuori da quel posto. Poi ne ho fatti tanti altri, poi io lavoro da tanto tempo proprio come performer, però cioè l'idea di continuare questo percorso forse anche perché ha segnato un po' la fine di quell'altro, perché ovviamente stavo cercando anche di smettere, però per una questione di tempo, di energie, di risorse, il volontariato ha un tempo, una durata, certo. E forse questo spettacolo è un po' coinciso con questa fine, cioè nel cercare di dare una fine a quell'esperienza. Probabilmente sono iniziate anche le domande più profonde che mi sono portata dietro, a cui ho cercato di rispondere, anche perché adesso io effettivamente ho una relazione molto personale con un gruppetto di almeno 8 ragazzi e ragazze che ora sono adolescenti e sono usciti dalla casa famiglia. Oltretutto, vabbè, si sono anche ritrovati a 20 anni, 21, che è l'età in cui devi uscire da queste case, si sono anche ritrovati con la pandemia e abbiamo affrontato tantissime questioni legali, comunque di come inserirsi all'interno del mondo del lavoro, quindi proprio anche questioni proprio pratiche. Questa cosa mi ha iniziato a prendere molto molto tempo, mi è sembrato che questo numero potesse essere il limite massimo di relazioni umane cui posso dare poi effettivamente un ascolto profondo. A questo punto, certo, forse io non riesco poi ad aggiungere. Dalle interviste di Muradic mi sono ritrovata, come dire, in contatto comunque con delle questioni che riguardano i minori non accompagnati in Italia, quindi da un punto di vista legale, da un punto di vista politico, da un punto di vista, come dire, burocratico. Quindi poi ho iniziato tutta una ricerca parallela di interviste proprio per approfondire determinate questioni, e quindi poi sono entrata in un mondo infinito, per cui c'è tutta una parte di interviste che non sono in questo lavoro. Noi abbiamo scelto di parlare di quello che c'era più vicino rispetto anche all'incontro vero che è stato magari 18 anni fa, quindi non mi sentivo di dover approfondire o spiegare a un pubblico qualcosa che poi forse ho scoperto 10 anni dopo, mentre abbiamo deciso di raccontare l'essenza di che questa cosa, di che questa relazione, di questo rapporto in fondo c'ha, qual è stato anche il motivo, no? L'essenza iniziale. Insomma, ci hai fatto veramente una panoramica anche, no, su quello che ci sta dietro uno spettacolo, no? Sul tuo spettacolo, perché poi è un documentario teatrale, quindi anche veramente una cosa particolare. Io ti ringrazio appunto per averci fatto questa grande panoramica. Insomma, non vediamo l'ora di vederti venerdì 8 aprile in scena all'Atelier. Poi domani Muradic fa anche un workshop qui a Libre Grant. Giusto, giusto. Quindi dalle 5 se vuoi venire. Bene, grazie mille Emilia, veramente. Vabbè, grazie a te.